Come cambiere rotta, appunto, siamo contrari all'arrivo dell'AIS a Milano per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In generale, si tratta di un evento, quello delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che si inserisce all'interno di un paradigma di sviluppo di questa città di Milano, volto a rendere questa città sempre più esclusiva ed escludente, renderla una città vetrina, una metropoli di stampo europeo, che sia attrattiva appunto per i capitali e che dall'altro lato invece nel portare avanti questi processi sta rendendo questa città invivibile per chi in questa città ci studia e ci lavora. Un esempio paradigmatico da parte nostra, studenti universitari, è il caso del Villaggio Olimpico che sta venendo spacciato come una grande opportunità per la città di Milano dal momento che alla conclusione delle Olimpiadi sarà trasformato in uno studentato. Il problema è che non sarà uno studentato pubblico, ma invece uno studentato in mano ai privati, in cui le stanze non scenderanno sotto il costo dei 600 euro, un costo che di poco si scosta, se non è anzi più elevato di quelli che sono i costi di mercato, che quindi non può in alcun modo essere risolutivo per quelle che sono le difficili condizioni abitative nel quale si ritrovano gli studenti di Milano. In occasione delle Olimpiadi, appunto, arriveranno in città anche i capi di Stato americani con la scorta dell'AIS, e noi siamo assolutamente contrari all'arrivo da un lato quelli che sono appunto gli esponenti americani come Vance e Rubio, che sono parte di quella classe politica che è responsabile da un lato del genocidio del popolo palestinese, ma come abbiamo visto anche negli ultimi giorni, di quella che è un'aggressività come abbiamo visto nei confronti del Venezuela con i bombardamenti su Caracas e il rapimento di Maduro, e che in generale sta portando avanti una politica imperialista nei confronti di tutta l'America Latina, e siamo contrari appunto all'arrivo dell'AIS, che credo che rappresenti perfettamente quella che è la crisi di civiltà dell'Occidente, che mentre si racconta come culla di benessere e democrazia, e che in nome di questi valori si permette anche di bombardare paesi sovrani con la scusa di esportare appunto la democrazia, invece rappresenta politicamente quella che questa democrazia occidentale è, ovvero una democrazia che ha delle evidenti difficoltà di tenuta, e che in passaggi come questi mostra quello che è il volto più barbaro e meschino, con fondamentalmente delle squadracce paramilitari che stanno mettendo a ferro e fuoco la città di Minneapolis. La risposta da parte del popolo americano l'abbiamo vista nelle strade qualche giorno fa, con uno sciopero generale che ha riempito la città appunto contro quella che è la stretta repressiva dell'amministrazione Trump e l'operato dell'AIS, e lo stesso faremo anche noi qui a Milano con il presidio che abbiamo lanciato per il 6 di febbraio, il giorno della cerimonia, sì, di inaugurazione delle Olimpiadi, il venerdì 6 febbraio. Abbiamo lanciato un presidio contro la presenza appunto dell'AIS a Milano, con anche la presenza di Chris Small, che è uno dei un attivista anti-AIS e soprattutto il fondatore della Amazon Labor Union. Quindi insieme a lui faremo questo presidio a Milano, per poi spostarci insieme a Genova per lo sciopero internazionale dei lavoratori portuali contro la guerra.